tutto parte da una linea. L'ago è nella pelle, l'inghiostro lascia un segno che rimarrà perenne. Il corpo è la tela su cui si può comporre la mia storia, che se non conosci puoi solo supporre. Parla d'amore ed odio, delle mie emozioni, poi passa timidezza e mostra chi c'è i coglioni. Non è follia, questa è arte espressa. La N è la doppia S, la sua rabbia repressa. Da primo tattoo, fatto per gioco, quasi per scommessa. Oggi faccio i conti con lo spazio che scarseggia. Ricordo, ero come un foglio bianco che aspettava il voto, e quelle come te, l'inghiostro che ha riempito il vuoto, mischiandosi col sangue. Matrimonio d'amore, col sangue sigillo, un batto d'onore. E a chi domanda quanti tatu ho, gli rispondo non lo so, arriverò a rispondere uno solo. Tutto scorre, lasciano andare, è un fiume di inchiostro che non puoi fermare. Una traccia nera scorre sotto pelle per non cancellare quei momenti che vuoi ricordare. La mia vita è scritta sulla pelle, è una traccia nera tra le rughe di un ribelle. Vivo bianco e nero, ma resto emotivo, sognando a colori. Il tatu che fa più male è quello che farò domani. Di quelli che ho fatto, ho ricordi vaghi. Io mi tatuo per un dolore passeggero, come Dexter, dentro me porto l'oscuro passeggero. Ho visto più aghi dei tossici a San Patrignano. In questo corpo circola più inghiostro che sangue umano. Ho più tatuaggi che buone intenzioni. Ora sai che non mi devi rompere i coglioni, perché sono più sporco dentro che fuori. Tu giudichi a priori ed io ti faccio fuori, perché un amore è indelebile quando non si cancella. È il bagaglio che porto con me fuori da questa cella. Non posso stargli lontano, i tatu mi stanno addosso. Se l'abito fa il monaco, io sono Johnny Rosso, che t'ammazza, lascia un sorriso insanguinato. I tatu che addosso sono la corazza di un soldato. Tutto scorre, lasciano andare, è un fiume di inchiostro che non puoi fermare. Una traccia nera scorre sotto pelle per non cancellare quei momenti che vuoi ricordare. La mia vita è scritta sulla pelle, è una traccia nera tra le rughe di un ribelle. Vivo bianco e nero, ma resto emotivo, sognando a colori. Il giorno che distribuivano le rime, sono arrivato tardi. Ho preso quel che c'era, per questo distoglievo sguardi. Allora ho cominciato a scrivere sul corpo quello che volevo dire. Ora lo indosso finché sarò morto, e chiudi quella bocca, così ti ho spaventato. È vero, la mia schiena ti lascia senza fiato, etichettato come quello tatuato. Ma se etichetta non la strappi, l'inghiostro m'ha segnato. Al vostro sguardo, a cui non sono abituato, la mia pelle veste il corpo del reato. E se il sole bacia i belli, io per questo non mi abbronzo. Resto quello tatuato con la faccia di bronzo, che come vedi non ha niente da nascondere, ma lo leggi sulla pelle solo se conosci il codice. Ed ora è giunta l'ora che qualcuno mi prenda sul serio. Quello che ho da dire, leggetelo sul dito medio. Tutto scorre, lasciano andare, è un fiume di inchiostro che non puoi fermare. Una traccia nera scorre sotto pelle per non cancellare quei momenti che vuoi ricordare. La mia vita è scritta sulla pelle, sulla pelle. Una traccia nera tra le rughe di un ribelle. Vivo bianco e nero, ma resto emotivo, sognando a colori. Io c'ho un buon motivo.